Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tempesta, due ore di sole, due ore di battaglie, due ore senza amore, due ore per trovare l'uscita di sicurezza, due per riconquistare un tuo stato di grazia. Buongiorno, buongiorno dottor Carlo. Due ore per il sesso, due ore sciamane. Due allora, siamo tornati tutti. È tornato Piantaneda, il nostro autore Roberto Scaltritti, il nostro regista Claudia Schiattone, in redazione, è stata lì per tutta l'estate. L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. Ma soprattutto è tornato il bomber. Pierluigi Pardo, buongiorno. Dai. Tutto bene? Vacanze? Ho appena twittato che mi siete mancati, anche se poi noi ci siamo sentiti, insomma, vacanze bene, tutto a posto. Vacanze bene, sei bello carico. Sì. Seconda stagione insieme alla guida di tutti i convocati, ne faremo di tutti i colori, o no? Ma spero proprio di sì, insomma, io devo dire che io mi sono divertito tanto l'anno scorso, speriamo di divertirci anche quest'anno e basta, poi qua si diventa banali, no? Si diventa, ma pure di più, pure autoreferenziali, di più. Basta, siamo felici e via, mi pare che di cose ne succederanno anche quest'anno. Pierluigi, ti licenzio. Tanto ricomincia anche con Tiki Taka, 23:25 stasera con due grandi esclusive, Tavecchio, insomma. Insomma, attento, insomma, voglio dire, cercheremo di capire che progetti ci sono al di là delle battute. Mi sembra che l'epoca delle battute e delle gaffe che abbiamo lungamente commentato sia finita. Siamo passati alla fase 2. Ottimista, inguaribile. Torneranno, certo, però voglio dire, adesso, come avevamo detto anche verso la fine, che cos'era, luglio, quel mese lì, negli ultimi giorni, al di là, insomma, della condanna assoluta della battuta sulle banane, però poi quest'uomo va valutato per quello che farà, per quello che sta già facendo, quindi no, secondo me bisogna adesso non essere non avere un pregiudizio ideologico. Pierluigi, molto realisticamente, se devo valutare le prime mosse di Tavecchio, sono quelle relative alla nazionale, meglio di così non poteva fare. Conte, commissario tecnico, poi ha parlato poco fa Conte, prima, insomma, investitura con la maglietta rossa, quella d'allenamento della nazionale. Le prime due mosse sono state Conte, perfetta, e Oriale affiancato a Conte come team manager in quel ruolo così prezioso che è stato ricoperto per anni da Gigi Riva. Quindi niente da dire su queste mosse. Io credo questa cosa qui in generale è una cosa, cioè, non essere ideologici fa bene, secondo me, a tutti. Questa è la mia idea, fa bene alla salute. A me l'operazione Conte, l'ho detto, l'ho scritto, ne abbiamo parlato, è piaciuta da matti. Credo che non sia condizionabile dallo sponsor, almeno non più di quanto qualsiasi sponsor tecnico possa condizionare un allenatore. Non credo che la Nike, tanto vabbè, facciamo un po' di nomi, non condizioni in qualche modo l'allenatore del Brasile, tanto per capirci. È ovvio che se c'è un grandissimo giocatore che ha quel marchio ed è un testimonial di quell'azienda ed è un giocatore importante per la nazionale, stesso discorso ce l'avrà l'Adidas in Germania, certo, e ce l'ha la Puma in Italia. La mossa di non convocare Balotelli, secondo me, è anche un segnale da questo punto di vista. È chiaro che era squalificato per una partita, forse voleva dare un segnale a Balotelli facendogli capire che non è imprescindibile, e voleva fare subito un segnale, secondo me, di autonomia dallo sponsor. Sì, però sai come funziona qui, no? Allora hanno preso l'allenatore della Juventus e il team manager dell'Inter, adesso non convoca Balotelli, convoca Zaza, giocatore in area Juventus, perché sai che poi si ragiona in questo modo, eh? Io ne ho ampie prove, vuoi vedere? 800 24 00 24, il numero verde, te lo garantisco. Posso confutare questa tesi subito? Innanzitutto io non credo che Conte, al di là dell'affetto e della sua cioè del fatto gobitudine. Che lui rimane un tifoso, rimane un tifoso della Juve, però credo che non è che abbia finito benissimo, cioè ha finito secondo me neanche malissimo, però insomma comunque è stato un trauma quello di aver lasciato la Juve, per cui non credo che adesso sia lì a fare i favori ad Agnelli, ma poi soprattutto secondo me non gliene può fregare giustamente di meno, nel senso che lui è l'allenatore della nazionale, pensa all'interesse della nazionale. Io credo che nella dietrologia sul fatto che lo sponsor tecnico può creare problemi c'è una sottovalutazione e un implicito insulto all'intelligenza di Conte. Conte, secondo me, penserà a se stesso e quindi penserà al meglio della nazionale. E dobbiamo fidarci di questo, punto. Poi, in assoluto, certo, mi sarebbe piaciuto che Conte avesse accettato un'offerta della metà senza i soldi dei privati, perché sarebbe stato un bel gesto, ma se il privato questi soldi gliel'ha dati, ma sì, io non vedo il problema, guarda, ti dico se facciamo questo discorso, allora poi chiamiamo Barisoni e parliamo del mercato, e discutiamo di politica economica e di quanto il mercato condizioni le nostre vite. Oppure chiamiamo Cruciani e sai di cosa parliamo? Di Ferrero, è un argomento che lo appassiona tremendamente. Lo so, il signor Ferrero, ma stasera ricomincia la zanzara, vero? Stasera ricomincia la zanzara. Ricomincia tutto, riparte tutto, riparte anche tutti i convocati, 2 ore ed è tornato il bomber Pierluigi Pardo. Senti, facciamo così, abbiamo il traffico già, che tanto il resto non è cambiato, è tutto uguale. Poi abbiamo, che meraviglia, adesso lo faccio lanciare, poi abbiamo, dopo il traffico, aspettiamo già un ospite che è un nostro caro amico e di cui non... al quale non si poteva rinunciare in questo primo giorno di scuola bis, e poi aspettiamo gli ascoltatori. Questo è il piano 800240024, perché poi abbiamo parlato di Conte, dobbiamo parlare del campionato, dell'Inter che delude, del Milan che non t'aspetti, degli arbitri, Mazzarri già ha ragione in questo caso, ha detto delle cose come sapete, Roma e Juve che tengono botta, eccetera, eccetera, eccetera. Lancia pure il traffico, Pier. Perché va bene tutto, ma adesso c'è il traffico, il traffico. Applausi per lui, pubblicità per noi. Tutti convocati. Lui, Mihajlovic, ci ha detto ci siamo raccontati delle barzellette quando ci siamo visti e poi l'ha ringraziata per il mercato. Allora, è vero questa storia delle barzellette? Che barzellette erano? Sì, sì, è vero, perché io ho fatto 3 film a Palermo e gli ho parlato un pochino palermitano, se ne ho messa, 1-1, va bene, ci sta, buonasera a tutti, ciao Ilaria, sei la donna che fa il pallone, ma quando vuoi fare l'attrice ti faremo fare un grande film. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a Marchegiani e saluto Di Marzio e Boba e tutti i grandi di Sky. Guarda, credo che il ragazzo ci darà delle soddisfazioni. Subito, una volta si diceva santo subito, io ti dirò attichitaca subito, o anche a tutti i convocati subito, pigliamoli in qualche modo. Presidente, siamo qua, siamo pronti, perché il ragazzo credo ci darà ampie soddisfazioni. Ferrero, presidente della Sampdoria, che è debuttato con un pareggione 1-1 a Palermo. Allora, voglio farti sentire un'altra cosa, Pierluigi. Te la colloco temporalmente, conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, non quella di oggi, ma quando è stato presentato ufficialmente come CT della Nazionale, c'è un pazzo che prende il microfono e fa queste 3 domande. Antonio, 3 domande secche. La prima è questa: al tempo della tua squalifica tu eri stato molto duro nei confronti della Federcalcio, avevi addirittura parlato di paura. Vorrei sapere se è passata adesso che la Federcalcio è il tuo datore di lavoro. Seconda domanda, se temi un'ingerenza dello sponsor tecnico, che è sponsor anche di alcuni giocatori convocabili. E la terza, vorrei sapere quanti sono gli scudetti della Juve secondo te, 30 o 30? Quanti sono gli scudetti della Juve? Se segui la contabilità della Federcalcio che ti stipendio della Juve. Grazie. Queste sono 3 domande agghiaccianti. Sì, ma poi 3 domande. Infatti, una cosa chiedo. Ne potevi fare una. Tolgo un attimo la scena al nostro commissario tecnico. Prego tutti i colleghi presenti che se ognuno fa 3 domande io non sono in grado di dare la parola a tutti. Ma anche perché agghiaccianti. Prova il sinistro! Del palo incredibile! Chi prende l'Inter, dove mi porti? E poi di soprattutto, perché cantava Ligabue? Perché ci dovrà essere un motivo. Abbiamo Crosetti? Esatto, l'autore di queste 3 domande. Oh no! Idolo assoluto. Ciao Mao. Vorrei complimentarmi, vedo che frequentate i classici oggi. Bravi, bravi. Frequentiamo i classici. Ma te le ripensate da un po' o ti sono venute lì per lì? No, beh, a me vengono dal di dentro, come si dice, le domande. Più che altro è il mio mestiere fare le domande. 3 quarti certo. D'ora ne avevo sentite poche di domande. Sì, strano. Attacco, attacco. Attacco corretto. La domanda indicativa era, senti, senti Antonio, ma sei contento di essere in nazionale? Poi un'altra cattivissima, speri di vincere anche molte partite come alla Juve, allora a quel punto lo salta. Però insomma le tre domande c'erano, insomma, davano fatte. Devo dire che Conte secondo me è stato molto bravo nel, certo, è stato molto bravo nel rispondere, o se preferisci nel non rispondere, nel senso che comunque ci sono temi e situazioni nelle quali la coerenza, perlomeno la coerenza talebana, no? Quella di stare sempre dalla stessa parte in una maniera ortodossa e senza nemmeno il beneficio del dubbio, diventa complicata, perché è ovvio che la federazione dice 30, tanto per fare un esempio, e la Juve dice 32, per cui sì. O fai la media algebrica, che tra l'altro io la raccomandavo, potrebbe essere una soluzione per battute, sì. Però voglio dire, in generale è abbastanza difficile, insomma, venirne fuori. E lui ha detto, lo ricordiamo, no, che i suoi gli scudetti che ha vinto come giocatore, come allenatore, gli 8 scudetti, esatto. Gli 8 scudetti, e da quello che so qualche tifoso della Juve non ha gradito, ma ci sta, insomma. No, ma infatti mi è venuto da 32 a 8, sì, fa una certa differenza, ma intanto lui conti i titoli personali. Maurizio, la mia sensazione è che vi foste messi d'accordo prima, ma comunque vabbè, me la tengo. Ascolta. No, ma la cosa più bella però non l'hanno mostrata le telecamere, cioè quando Tavecchio si è avvicinato a me e oscillando il dito ha detto: Crosetti, lei è proprio un birichino, e quella parola io non la sentivo da quando andavo all'elementare, è stato bellissimo. Tanto che tu avevi detto, hai perso la scommessa con me, Mao, ti ricordi? Io ho detto, guarda che lo eleggono, no, e invece, Tavecchio presidente federale. No, questo per la cronaca, mettiamo agli atti. Senti, prima di campionato, Pardo, fai finta di non sentire, prima di campionato il solito coito interruptus, uno spottone per le televisioni, no? Tra due settimane sarà tutto diverso, ci fanno vedere questa roba, poi mandano un sacco di promo, ci fanno venire un po' di voglia, e vabbè, la nazionale adesso è interessante, ma è chiaro che una giornata di campionato non significa niente. Beh, ma infatti io sono arrabbiatissimo con questa pausa, perché aspettiamo 3 mesi vivendo domeniche inutili, weekend insulsi, una vita senza più significato, e finalmente torna al campionato e me lo levi subito. Cioè, non puoi darmi una fetta sola di torta, io ne voglio 2 di fette di torta. O 3 come fanno in molti posti. Resistere 2 settimane sarà terribile, ma ce la faremo. Però questa volta posso dire, questa volta è un pochino meglio, perché c'è più curiosità per la nazionale, secondo me. Cioè, comunque l'arrivo di Conte, l'amichevole con l'Olanda, il primo match ufficiale contro la Norvegia, un minimo ci danno. La giornata drammatica sarà domenica dobbiamo inventarci qualcosa, ragazzi. Sì, stiamoci vicino, abbracciamoci forte, andiamo a pescare, facciamo la domenica, se c'è il sole, possiamo fare un'altra cosa. No, però resta il fatto, Pier, che una giornata, dalle altre parti almeno se ne giocano 2-3. Una giornata davvero non ha alcun senso, anche perché chiude il mercato stasera alle 23, magari qualcosa c'è. A proposito, Falcao con il piffero che viene alla Juventus, va allo United in prestito per una somma spropositata, perché pare siano 34 milioni, 10 al club e 24 lordi al giocatore, qualcosa di inimmaginabile per un prestito. Per quello che abbiamo visto ieri, la prima tappa, sorpresa, la vince il Milan di Inzaghi, così, no, a sensazione. Allora, mediaticamente sì. Cioè, mediaticamente. No, è chiaro che insomma di tutte le partite, un po' perché ha giocato ieri, e quindi è più calda nella testa oggi rispetto a Roma e Juve che avevano cominciato il sabato. Anzi, secondo me è esattamente per questo motivo, perché in realtà poi la Roma ha battuto la Fiorentina, quindi ha fatto esattamente la stessa cosa che ha fatto il Milan, ha vinto in casa contro una squadra buona, ma forse ancora un filo sotto alle grandissime. E la Juve è vero che ha vinto solo 1-0 a Verona col Chievo, ma ha mostrato una feroce agonistica che pochi si aspettavano. Sì, era ancora la Juventus di Conte, per disegno questo, e per atteggiamento. Detto questo, per carità, il Milan ieri ha ben impressionato per l'atteggiamento. Poi chi ha visto la partita sa pure che la Lazio ha avuto una serie di palle gol alla fine molto, molto pesanti. Certo. Quindi, però insomma è un ottimo inizio. Parlando del rapporto qualità-prezzo. Da questo Milan non ti aspetti niente, l'avversaria era di livello. Io ho visto un Milan molto umile, molto preciso, con corsa, buona condizione, convinzione, cose che negli ultimi anni erano mancate, Mao. E poi soprattutto quando Inzaghi è scattato verso i suoi giocatori per festeggiare il gol di Buttari, era buona. Cioè, pensavamo fosse in fuorigioco, invece lo scatto l'ha fatto e ha fatto gol, insomma, quindi no, è vero, è vero. Milan un Milan finalmente compatto, finalmente tutti per uno, eccetera eccetera. È stato anche bello che Inzaghi abbia fatto riscaldamento con i giocatori, insomma la luna di miele è sempre un periodo bello, bisogna vivere poi bene la quotidianità degli amori, no? Però partire bene non è che guasta. Uno contro uno di Abate, cerca di saltare Radu, riesce a crossare dentro per Muntari, come nel primo tempo, inizia meglio la Lazio, il gol lo segna il Milan. Poi insomma sì, dovrò cercare, purtroppo dopo il secondo gol ho perso un po' la testa e so che un allenatore non dovrebbe entrare in campo, però insomma adesso se ci togliamo anche le esultanze penso che siano le cose belle del calcio. Le cose belle, i grandi piaceri, i piccoli piaceri della vita. Inzaghi è ancora un calciatore, dai, sì. Ma nel senso buono. Inzaghi ieri, io ho fatto la diretta premium di Milan-Lazio, ha fatto il riscaldamento appunto in campo con i calciatori. Ci mancava veramente poco che si mettesse a palleggiare pure lui, con un livello di tensione molto simile a quello di chi stava per scendere in campo. Ha festeggiato il gol del 2-0 con, come l'avete visto, insomma, abbracciato dai giocatori che sono andati a cercarlo. È uno di loro. Esattamente in una maniera uguale e contraria rispetto a Seedorf, forse perché Seedorf era, lo possiamo dire lo diciamo col senno di poi, certamente una persona molto intelligente, l'intelligenza forse addirittura superiore, sì. Ma che probabilmente aveva una distanza rispetto al resto, sì, molto presuntuoso lo è sempre stato, e il Milan era una squadra molto presuntuosa. Inzaghi è uno di loro, e il Milan gli assomiglia. Poi non vorrei che questo potesse diventare un limite. Intanto oggi il Milan ha preso anche Biabiani ed è ufficiale scambio con Zaccardo. Van Ginkel che l'ha preso, visite mediche superate. Adesso si sta parlando anche di qualche altra operazione, ma non credo verrà perfezionata. Di Falcao si è detto, di Cassano diremo, non so se resta a Parma, questo ce lo dirà Pardo dopo. Maurizio Crosetti invece, che ieri ha visto e commentato e scritto di Inter oggi su Repubblica, dico, è arrivata con grandi credenziali, un grande exit poll dell'estate per l'Inter. A Torino un Inter deludente, ha giocato per il pari l'Inter a Torino, è tornata ad arrabbiarsi, ha ragione con gli arbitri, però non grande distanza rispetto all'anno scorso. Sì, è sembrata più o meno sempre la stessa squadra, tanti centrocampisti, tanta gente, come dire, di interdizione, per carità, anche di qualità come Medel, e due fantasisti che sarebbero portati a dialogare con un centravanti più manovriero. E invece Icardi non è quel tipo di centravanti lì. Mi sembrava che i tre non fossero poi molto, molto amalgamati. È andata meglio quando è entrato anche Osvaldo, però insomma è certamente da rivedere un po' tutto quanto, anche se l'Inter potrà far sicuramente meglio, io credo, e poco ci vuole forse rispetto all'anno scorso, però insomma non è una squadra di pellegrini. Deve soltanto sbloccarsi davanti, credo. Sì, il Toro, se comincia magari a trasformare anche i regali che gli danno, forse è meglio. Il Toro è dura, senza Cerci Immobile dovrà intervenire se riesce ancora nelle ultime ore. Quagliarella va benissimo, per carità, ha preso Mauri. C'è un tweet di Chiambretti, sì, che qualche minuto fa non è contento. No, non è contento. Dice: sono andato a dormire aspettando un rinforzo, è arrivato a Mauri, torno a dormire. Però a me sembra che sinceramente male non faccia, mi sembra un giocatore che non è quello di qualche anno fa, quando sembrava poter avvicinarsi a un livello quasi da top player, ma non mi sembra neanche un brocco clamoroso. E poi io ho una fiducia in Quagliarella al Torino straordinario, me lo comprerei a fantacalcio, ma il problema è che già ce l'ho e quindi me lo tengo a fantacalcio, nel mio fantacalcio. Vabbè, perché veramente secondo me può fare grandi cose. Senti Maurizio, un'ultima cosa sul Napoli, ha vinto ieri con parecchia fortuna al quinto minuto di recupero, però esce da una settimana che ci lascia l'idea di una squadra che non stia tanto bene insieme. Soprattutto l'idea di una squadra che non abbia fatto grossi passi in avanti per superare i limiti che purtroppo le riconosciamo da molto, cioè una difesa così, è un centrocampo e un attacco in grado di far molto, però fondamentalmente è una squadra abbastanza spezzata in due. Questo stupisce un po', perché era evidente che occorresse, anche se qualcuno è arrivato dietro, però insomma tra la Spagna e la Bilbao e un po' anche ieri, perché poi comunque anche il Genoa ha fatto ballare un po' la difesa del Napoli, mi pare che forse si dovesse intervenire lì soprattutto. Quindi si doveva andare al negozio di giocattoli anche in questo caso? O al negozio di giocattoli oppure fare prendere i pezzi del meccano e costruirsi il giocattolo, però sappiamo che questo è un po' che non succede, oppure andare a fare come fa la Juve, prenderli quando sono bambini in seconda media, guardarli lì e poi acchiapparli come questo Coman, che non abbiamo detto, ma alla fine secondo me il nome della domenica, vabbè ce ne sono tanti, il ritorno di El Shaarawy, l'elenco è lungo, però se dovessi scegliere uno dico proprio King dei Coman, perché Perché è giovane, perché è nuovo e perché indica una tendenza. Se fosse però non è italiano, non è italiano. Mi hai rubato la parola di bocca, come diceva il conto Golino. No, ma come non è italiano, quindi non vale. Per me tutta questa è una mistificazione. Non è italiano, ma è un buon giocatore. Quindi io sono contento che giochi nel nostro campionato, spero che esploda, anche se è francese, perché, torno a ripetere, non capisco come mai ci si svegli tutte queste mattine a dire non giocano gli italiani. Gli italiani, se sono bravi, devono giocare, se sono più bravi i francesi o degli altri, al massimo livello professionistico, che giochino degli altri, anche perché nessuno fa le pulci all'Udinese, che questa politica la pratica da anni, anzi tutti applaudono, no? È così, bisogna fare in modo che di portare gli italiani a diventare più bravi. Bravo, esatto. Se la situazione è questa, giocano i più bravi, assolutamente. Perfettamente. Grazie Mao. Ciao, buon lavoro. Poi, ciao. Grazie ciao. Maurizio Corsetti. Pier, stai lì. Adesso c'è la... Adesso c'è la borsa, i mercati. Sei preparatissimo. Orso Toro. Lo scopriremo fra un attimo. Rimanete con noi. Orso Toro. Butta dentro il pallone. C'è Higuain. Anche Koulibaly. De Guzman la prende. De Guzman! Il gol del Napoli. Appena arrivato. De Guzman si presenta così. Vince il Napoli. A Genoa. La firma è di De Guzman. La Roma aveva vinto il campionato. La Juve aveva vinto il campionato. Il Milan aveva vinto il campionato e chi perdeva sembrava che andava in Serie B. Il calcio italiano ha un po' di tranquillità o sarà sempre così, ogni partita sarà vita o morte. Credo che il calcio deve essere calcio e dobbiamo sfruttare un po' questo tipo di partite. Tutti convocati. La Roma aveva vinto il campionato, la Juve aveva vinto il campionato, il Milan aveva vinto il campionato e chi perdeva sembrava che andava in Serie B. Il calcio italiano ha un po' di tranquillità o sarà sempre così, ogni partita sarà vita o morte. Credo che il calcio deve essere calcio e dobbiamo sfruttare un po' questo tipo di partite. Vabbè, questo era Benitez che ieri ha vinto in extremis una partita che poteva anche perdere, che è stato un eccellente Genoa per tre quarti di gara, poi si è sciolto e ha segnato l'ultimo arrivato, importante per il Napoli questo. C'è anche Mazzarri, Luigi Pardo sei lì, vero? Sì, sono qui. Sai certo. Mazzarri, no? Che ieri ha ricominciato con i lamenti. Peraltro devo dire, adesso tutti si arrabbieranno, però devo dire, ha ragione da vendere. Il discorso però è sempre quello, questo. La palla arriva alla Rondo, la giocata, attenzione, calcio di rigore. È finito giù Quagliarella ed è calcio di rigore per il Toro al 19° minuto. La Rondo e Handanovic, para il rigore dell'argentino, si conferma insuperabile. È andata così, boh, si va avanti. C'erano nuovi, Medea che è arrivato ora, che ha fatto un'ottima gara. E se a parte il rigore, ogni contatto in area con rigore si finisce mai. Allora dopo ce n'era un altro più grande, poteva essere decisivo su Icardi, che ci avrebbe magari potuto dare la vittoria. Se si dà il primo si deve dare anche il secondo, per uniformità di valutazione addirittura era molto più evidente il secondo del primo. Questa era una cosa, però questi non sono rigori, perché basta un contattino, uno casca in terra da rigori, ce ne sarebbero 100. Quando un arbitro tiene una linea, almeno che la tenga fino in fondo. In questo caso, nello specifico non ha torto, no? No, ha ragione. Nello specifico non ha torto, perché non c'era rigore da una parte, certamente per il Toro, non c'era neanche quello sui Cardi. Pari e patta, l'espulsione di Vidic ci può anche stare, perché quegli atteggiamenti gli arbitri italiani li puniscono sempre, bene che Vidic lo capisca alla svelta. La verità è che comunque ha presentato un Inter molto rinunciataria, non quella che avevamo visto comunque negli exit poll prestagionali. Guarda, sì, è stato un po' deludente ieri. Io penso che il Torino sia una buona squadra, cioè io penso che comunque bisogna ovviamente considerare, soprattutto perché è una sola partita prima della pausa, anche chi hai di fronte. Il Torino è una squadra che ha cominciato la preparazione in grande anticipo, perché ha fatto ovviamente i turni preliminari dell'Europa League. È una squadra che ha una filosofia, secondo me un coraggio che gli rimane dalla passata stagione. Certamente Immobile e Cerci non si regalano, però Quagliarella e Amaurì proveranno a non farli rimpiangere più di tanto. Secondo me non è facile, insomma, quindi l'Inter secondo me aveva un test abbastanza complicato. La partita non si è messa in discesa come è successo subito invece per esempio al Milan, per una disattenzione secondo me abbastanza evidente della difesa della Lazio. e quindi secondo me va letta in questo senso. Poi certo, il passo indietro c'è, anche perché l'Inter aveva dato la sensazione e mi dà la sensazione di essere cresciuta comunque dal punto di vista, certo, da ogni punto di vista, e quindi aspettiamo, insomma, mi sembra veramente troppo presto. Semmai, ecco, Vidic dovrà imparare un po' di italiano, un po' di maniera l'italiana, perché quello che gli sì, perché ci sono cose che qua non ti lasciano passare, questo è bene saperlo. Uno della sua esperienza, insomma, avrebbe già dovuto impararlo. Ma secondo te sono svegli o dormono i ragazzi? 800 24 00 24. A che dormono? No, sono svegli? Secondo me sì. Valerio Palermo, buongiorno. Buongiorno, grazie alla convocazione. Posso dire, Valerio parla il palermitano meglio di Ferrero addirittura, incredibile, Oppure è Ferrero che fa, si spaccia per Valerio. Ci mancherebbe altro. Cioè io non vedevo l'ora che cominciasse il campionato, ecco. battuta un po' così. Comunque, da tifoso del Palermo, la domanda è questa, anzi più alta considerazione, e chiedo vostra opinione. Penso noi Palermo abbiamo l'organico più scarso del campionato, non siamo riusciti a vincere una partita in casa contro una squadra in giornata e con un uomo in meno, una Sampdoria in giornata e con un uomo in meno, ogni punto sarà tirato. No, non la vedo così drammatica la storia. Poi c'era la Sampdoria di Ferrero che debuttava in campionato italiano, insomma è finita come ha fatto comodo a tutti. Non vedo il Palermo così disastroso. Non lo vedo disastroso, anche punti, se della fragilità c'è, onestamente, della fragilità c'è. Secondo me non è una squadra, non è certo che retroceda, perché da poi c'è il mercato di gennaio, però è una squadra che secondo me non è completamente fuori pericolo, ecco, questo sono d'accordo con l'ascoltatore. Salvatore Vicenza, buongiorno, grazie per la convocazione. A lei dica. Appello per fare gli arbitri, perché sembra che tutti abbiano il telefono che aveva Pierluigi, ma hai spacciato cellulari? Guarda, io adesso farò una cosa, che però farò oggi sei perfetto. Oggi sono fisso, ma signor fisso. No, oggi il signor fisso. Adesso mi compro, sai, quei telefoni da 30 euro? Sì, bravo. Quelli che fanno solo le telefonate, adesso domani o dopodomani me lo compro. Bravo. Quelli da 30 euro che fanno solo le telefonate e lo uso soltanto per fare Radio 24. Bravo. Grandissimo. Quelli che non sanno neanche la cover, che non ci sono. No, proprio quelli lì che se puoi usarli anche come arma contundente, tanto non si rompono. 12 tasti, 1, 2, 3, 4, 5, quelli ancora con le letterine sotto. Che no? Se ancora devi mandare un messaggio hai qualche problema. Intanto hai spacciato cellulare in giro per l'Italia, perché io oggi non sento praticamente nulla. Proviamo Catania, salvo. Sì, buongiorno. Grazie per la convocazione. Prego. No, piccola considerazione, credo che una volta che sia andato via Balotelli, finalmente ritroviamo il campioncino del Sharawi. Solo questo, che prima secondo me veniva talmente offuscato alla presenza di Balotelli. Questa, diciamo, una mia, a parte ovviamente i guai fisici, no? A parte i guai fisici, però credo che più che fisici c'è anche qualcosa di psicologico, no? Un po' di offuscato un po' da Balotelli. Questa è un po' la mia impressione. Penso anch'io, perché la corrispondenza fra l'arrivo di Balotelli e l'eclissi di El Shaarawy è veramente clamorosa, e quindi diventa inevitabilmente sospetto questo. Beh, ma si è fatto male Pierluigi, cioè sì, c'è una problematica di infortuni lunghi. L'anno scorso ha avuto grandi infortuni in serie e ha fatto un solo gol ad Eindhoven all'inizio dell'estate, che è un motivo per il quale aspettiamo ancora un attimo prima di considerare El Shaarawy fuori dal tunnel, ovviamente glielo auguriamo tutto il cuore, mentre per quanto riguarda l'anno precedente ci fu l'ultimo gol il 24 febbraio nel derby contro l'Inter, appena era arrivato Balotelli. Io credo che questo effetto ci sia, poi non è stato solo questo. Ma sono giocatori molto diversi, cioè non capisco come, cioè tu intendi da un punto di vista tecnico o perché gli rubava la scena o dal punto di vista, che ne so, tra l'altro comportamentale, hanno un buon rapporto, un ottimo rapporto. Sì, lo so, però insomma. Cioè non mi sembrano due giocatori giocatori incompatibili dal punto di vista tecnico. Ma assolutamente, però insomma consideriamola, derubrichiamola una pura valutazione di carattere quasi statistico, una curiosità statistica. Diciamo che nell'anno e mezzo in cui è arrivato Balotelli il Sharawi è imploso, ha fatto due gol soltanto, uno nel derby e uno contro il PSV Eindhoven. Ha avuto tanti problemi, chiaramente gli infortuni non sono colpa di Balotelli, però che possa aver vissuto con una certa difficoltà questo arrivo, gli possa aver tolto un po' di sicurezza, un po' di titoli di giornali, un po' di vento a favore, questo ci può stare, insomma, sì. Rientra nei meandri psicologici. Il calcio non ha nulla di logico. No, è chiaro, dipende da molte cose, alcune delle quali è anche difficile da spiegare. È facile da spiegare invece la buona partita di Balotelli ieri al debutto con i Reds del Liverpool. First time in his life, he marked at a corner. Serious. International player. You know, he's won three titles in Italy, Cups, Champions League. And we were doing corners. I said to him, you're picking up my corner. He went, I don't mark a corner. And we do now. And he went in. And he had a great header today from a corner. Beatificato totalmente, redento e fulminato sulla via di Liverpool. Mario Balotelli, beh, era debuttato, non ha segnato, Liverpool ha vinto 3-0 con il Tottenham in trasferta, quindi vittoria pesante. E Brendan Rodgers che dice, oh, mi ha detto lui che per la prima volta nella sua vita è andato a marcare su un corner. Ma io ci credo, gli ho detto, mister, per la prima volta sono andato a marcare l'avversario su un calcio d'angolo subito. E poi Rodgers ha aggiunto, ha capito l'etica di questa squadra, auguri. Io penso che ieri ho visto la partita e mi è piaciuto. E mi è piaciuto soprattutto perché ha giocato una partita normale. Sì. Ha giocato le partite che qui non ha mai fatto. Insomma, a Balotelli bisogna riconoscere dei capolavori, dei piccoli, rari capolavori nel suo anno e mezzo al Milan. Tra l'altro ha fatto il suo record di gol in un campionato l'anno scorso, quindi non è stato tutto negativo. Il problema è che ha avuto una serie di sbalzi d'umore, come direbbe il maestro Battiato, che l'hanno portato a essere assolutamente not reliable, come diciamo noi inglesi. Non, come dite voi italiani, reliable, che non ci puoi fare affidamento. Reliable. Ecco. Ieri ha fatto il giocatore di calcio, ha dato una mano, ha dato un contributo complessivo alla squadra, ha dimostrato di poter essere utile non soltanto se calcia in porta. Lui ha una cosa eccezionale che è il calcio, certo. Il calcio verso la porta avversaria, potente, preciso, e la forza fisica. Per il resto è un giocatore con dei margini di crescita enormi. Vediamo se Brendan Rodgers riesce a trasformarlo. Però io ho imparato negli anni di Cassano, e penso che per Balotelli il discorso valga ancora di più, che noi saremo contraddetti mille volte. Certo, mille volte avremo certo. La tentazione di dire che è finita, che è sempre il solito. Oppure mille volte avremo la tentazione di dire che finalmente è cambiato, è migliorato, e poi ci sarà sempre la caduta improvvisa in un momento in cui tutto va bene, oppure la resurrezione improvvisa in un momento in cui sembra finito. Senti, adesso dopo la borsa mi dici invece di Cassano, perché ci sono certe voci, ci sono anche certe dichiarazioni peraltro di Donadoni, non se ne può più con questa storia, è sul mercato, non è sul mercato, il mercato che chiude alle 23, è fatale che ti giri questa domanda, caro Pierluigi Pardo. Convocati. Voci dell'ultimo momento dicono addirittura Cassano alla Fiorentina. Oh, perché si è fatto male Pepito Rossi, adesso forse va alla Fiorentina, ma è vero oppure no? O diciamo, insomma, sul Cassano tifosi. Io sono come la signora Camilla, tutta la voglio ma nessuno la piglia. No. Che fa signora Camilla? Ero al telefono con la signora Camilla. Non ci crederai, ma mi ha chiamato lui perché gli ho mandato un messaggio molto semplice. Gli ho scritto Firenze, punto interrogativo. E mi ha chiamato lui mentre eravamo in fascia. Infatti non ho sentito il traffico, e poi magari mi aggiorni perché sì, mi interessa il traffico. Fai tranquillo. E non sa niente, ha finito di mangiare e vabbè, insomma, sta credo all'allenamento col Parma, ha finito di mangiare adesso, da qualche minuto non sapeva nulla, e questo è lo stato dell'arte, un po' di radio verità. Sì, però il fatto che non sapesse nulla non ti ha detto no. Cioè, no, vabbè, però non era abbastanza sorpreso. Che è successo? Che è successo? Capito? Che è successo? Oh, io sto qua, adesso poi non posso dare dettagli di quello che... però insomma, diciamo che stava digerendo, ecco. Vabbè. Però insomma, sai, non si sa mai, l'ultimo giorno di mercato può succedere di tutto, però insomma non mi è sembrato uno con la valigia pronta, ecco. Anche se qualcosa dice. No, ma cioè, sai, poi stare di Firenze è un evergreen. Evergreen, certo. No, io penso a Cassano e Ferrero insieme, sarebbe veramente una cosa da chiamare i carabinieri a Genova. Signor Ferrero, sarebbe da chiamare i carabinieri. Sarebbe una bella storia di calcio, così come sarebbe bello con un Bari magari che torna in Serie A, mi sembra che i progetti ci siano, magari un finale di carriera non adesso, ma fra qualche tempo proprio a Bari. Ma è vero che sei tu la sorpresa di Ferrero? Che? È un po' di giorni che Ferrero dice vi che porta... quello della Nutella? No, quello della Sampdoria. Ah, ok. Ma che te ne vuol dire? No, veramente non so nulla, l'ho sentito adesso, guarda. Vediamo, c'è un WhatsApp. Chi sa no. tutto è Salvatore da Vicenza. Ecco, buongiorno, ero prima, ma è caduta la linea. Sì, ero... speriamo che stia in piedi, dica. Ecco, volevo chiedere due cose. Innanzitutto, lasciate stare gli arbitri, anche loro, la prima giornata, voglio dire. Ma a noi lo dice? A noi. No, appunto, voglio dire agli altri, se non leggete il regolamento, un conto è la spinta l'uno all'altro, un conto è la trattenuta di maglietta, come c'è stato a Torino. Due, volevo sapere, ho visto la partita Liverpool-Tottenham ieri, Balotelli... Sì. Per fortuna che sta a Liverpool, si è mangiato 3 gol e ha sbagliato un sacco di passaggi. Grazie, volevo sentire un po' la vostra opinione. Questione di gusti e di punti di vista, io la penso come Pardo, anche io ho visto la partita di Balotelli, secondo me ha giocato una buona partita, ha giocato una seria partita. Insomma. Sì, ha giocato una partita da giocatore, da calciatore, inserito in un contesto, in una squadra. Che ha vinto 3-0 sul campo del Toro. Voto 6.5. 6.5, vabbè, stiamo parlando di mezzo punto. Mezzo punto fa differenza. Partita da 6.5, ma partita incoraggiante soprattutto per la normalità. Che poi era, io mi ricordo, facciamo questi discorsi, non stavo ancora alle 24, un anno e mezzo fa, quando è arrivato Balotelli al Milan, e la domanda però era sempre quella, era il fatto, diventerà un giocatore normale, un giocatore sul quale poter fare affidamento, un giocatore da 30-35 partite l'anno, che non è che deve fare 25-30 gol, ma deve essere in grado magari di fare 15 gol e di dare anche quando non segna un contributo normale e di non fare una quantità industriale di errori. Comunque non è possibile che adesso Balotelli è partito, stiamo parlando di Balotelli alle 14.51, non può essere. No, stavo leggendo io invece una mail, sempre a proposito di Parma, tu parli con Cassano, io leggo le mail degli ascoltatori di Roberta Gibertini, tifosa del Parma, che è disperata perché gli hanno venduto Biabiani, gli hanno venduto Amorim, adesso gli vendono anche Cassano, mi manca solo che mi vendano a Cassano, ok, sono strasicura che dalla UEFA, persa per incapacità, andiamo dritti dritti in Serie B, così togliamo il disturbo visto che non ci vuole nessuno. Vabbè, questo è un po' eccessivo, cara Roberta. No, è un po' eccessivo, però secondo me... Cioè, è un punto di vista che ha una sua logica, nel senso che comunque il Parma è passato veramente dall'esaltazione dell'Europa League conquistata alla delusione della squalifica e poi a un mercato che insomma è un mercato un po', soprattutto in queste ore, di ridimensionamento. Non lo so, io poi, la sensazione, non vorrei che si fosse rotto qualcosa con il presidente, che non ha nascosto la sua frustrazione. Voleva andare via, aveva rassegnato appunto le dimissioni, era intenzionato a cedere. È chiaro che lo scambio Biabiani per Zaccardo più 4 milioni con il Milan diventa un po' difficile da spiegare. Certamente un'ottima operazione dal punto di vista del Milan, non so se e quanto dal punto di vista del Parma. Prima di Armando e Cristian, che sono ascoltatori già in linea, 800-24-00-24, volevo sentire di nuovo la tua sul discorso che si faceva prima con Crosetti. Ha parlato Conte e si torna a questo refrain: leggete le formazioni, italiani pochi, stranieri troppi. Poi ci accorgiamo che magari uno dei giocatori più interessanti e promettenti, come diceva Crosetti, è questo Coman della Juventus, che è un ragazzino, che viene un parigino, e davvero è stata una delle sorprese di questa prima giornata di campionato. Io sono convinto che, cioè voglio, desidererei vedere giocatori forti nel nostro campionato. Al passaporto guardiamo dopo. E poi spiegami perché non c'è uno in Italia che possa dire qualcosa contro il modello dell'Udinese, che è stato beatificato e pontificato in tutte le maniere e direzioni. Se c'è un modello di conduzione di una società professionistica orientata all'apertura, all'internazionalismo, questo è quello dell'Udinese. Allora, è vero. No, allora, il mondo del calcio a livello di club è un mondo globalizzato, cioè dal punto di vista delle società, se uno è argentino, francese, tedesco, del Burundi o dell'Italia non cambia niente, e questo è il modo nel quale operano tutte le società, non soltanto in Italia ma anche nel resto del mondo. Da noi c'è una certa prudenza sui giovani, e questo in qualche modo secondo me incide in negativo sugli italiani che trovano spazio nel nostro campionato. Questo è un primo elemento, cosa che non c'è per esempio all'estero. Da noi Coman è un'eccezione, un ragazzo così giovane che parte titolare, o Mastur se giocherà è un'eccezione. E detto questo secondo me poi alla fine l'Udinese ha seguito un modello vincente. È difficile criticarla perché ha ottenuto dei risultati eccezionali, al tempo stesso però bisogna lavorare sui vivai, ma per sì. Questo forse c'è la federazione. Guarda, stasera glielo chiedo a Tavecchio, ma credo che sia il tema dei vivai e della gestione federale dei vivai, mi sembra un tema importante. E comunque certo, ragazzi, dal certo. Punto di vista del talento è ovvio che oggi c'è più concorrenza, le scuole calcistiche tradizionali dei grandi paesi oggi trovano più concorrenza perché il calcio è globale di tutti, certo. Oggi il talento può nascere, le strutture per poter farli nascere e crescere, i vivai non sono più soltanto nei 4-5 paesi più importanti, ma sono ovunque, quindi noi inevitabilmente no, ma poi anche i ragazzi devono imparare a muoversi. Ad esempio, notizia di ora, la cessione di Cristante al Benfica, dal Milan al Benfica, cessione a titolo definitivo per 6 milioni. Sì. Quindi sì. Tu dici, arriva Inzaghi, allenatore della primavera, certamente fa giocare i ragazzini, invece no. Invece prendi Torres, poi prendi Viviani, poi prendi giocatori differenti e... Però il discorso è che probabilmente anche i ragazzi italiani, è vero, noi ospitiamo giovani da tutto il mondo, i ragazzi italiani certo. devono chiudere la loro valigia di cartone o di Vuitton, vedi tu, e andare a giocare da un'altra parte. Più probabile la seconda. La seconda che hai detto, La seconda sì, che hai sì, detto. Sì. Armando Teramo, buongiorno. Sì, salve a tutti, Bomber, mi siete mancati. Anche tanto, tu. Tanto. Anche tu, un sacco. Anche se c'eravate, però le due ore è tutta un'altra cosa, capito? Allora, volevo chiedere una cosa. Come lo vedete sto Napoli, no? Io dalla disfatta di Bilbao ho notato proprio una perdita di entusiasmo. Ieri Benitez post partita lo vedevo morto. Zuniga e Hiller che non hanno giocato nei preliminari e poi come per magia riapparono in campionato titolari. Che sta succedendo? C'è qualcosa che... Io l'ho detto prima. Andare? Ero a Napoli venerdì a fare una cosa con Higuain e devo dire che ho parlato con lui, con un po' di gente dello staff, e non ho visto una squadra sotto shock o un ambiente depresso. Ho visto un ambiente voglioso di ripartire. Il mio dubbio è il mercato, te lo dico sinceramente, perché secondo me certi punti interrogativi sono rimasti lì. Una squadra che deve migliorare in difesa deve migliorare al centrocampo, e poi è ovvio che uscire dal preliminare, preliminare è già una finale, ti cambia la stagione. Sì, ma scusa Pier, il mercato va bene, dicevo prima, il negozio dei giocattoli, però non puoi nemmeno arrivare a giocare a preliminare con una squadra che io continuo a considerare dal punto di vista dell'organico inferiore come il bellissimo Athletic Bilbao. Insomma, secondo me è stata preparata malissimo da Benitez. Sarei curioso di sentire sul punto anche Auriemma, censore totale di Benitez. Lì l'ha staccata Benitez, l'ha ciccata Benitez. Auriemma sta montando un pezzo qui per stasera. Fra l'altro stasera, scusa se faccio il lancio, ma è veramente quello che volevo, e siamo felici di accogliere qui Antonella Leardi, che è la mamma di Ciro Esposito, che quest'estate che sarà ospite in studio stasera. Ed è l'ospite che io volevo sentire. Perché la forza che ha mostrato di fronte a un dramma incredibile come quello che è accaduto, non cedere mai alla giustizia sommaria, alla tentazione della vendetta, all'aggressività, per me la rendono una persona speciale. È un esempio per tutti, perché poi noi siamo qui, chiacchieriamo e ci spendiamo tutti per la pace e la non violenza negli stadi, lo facciamo, ma lei lo fa dopo una tragedia personale, e secondo me è un qualcosa di incredibile. Per cui, no, Auriemma è qui, tornando all'aspetto del Napoli, io penso che il mercato, a me il mercato non è piaciuto. È vero che a gennaio hanno fatto un buon mercato, hanno preso 2-3 titolari e quindi hanno migliorato, però secondo me dietro c'è qualcosa che non manca. Ma però stiamo parlando di una squadra che ha fatto 104 gol l'anno scorso, che è arrivata terza, è il secondo anno di Benitez, che la conoscerà un po' meglio, quindi potrebbe anche migliorare. Sì. La prima cosa secondo me è uscire dalla sindrome della Champions vanita, mi viene in mente Palombella Rossa, no? Le merendine di quando ero bambino non torneranno più, i pomeriggi di maggio, no? E c'era lui disperato che stava lì e ripensava alle cose che non torneranno più. Ecco, la Champions quest'anno non tornerà più. Però c'è per esempio un'Europa League che è una competizione alla portata del Napoli. La competizione alla portata del Napoli, e io spero che Napoli e l'Inter la giochino con la serietà massima, l'ho già detto nei giorni scorsi. Senti Pier, ti lascio andare a lavorare su Tiki Taka, ti guardo stasera e ci sentiamo domani. Certamente. Passiamo. Allora, ciao. Aspetto tutti gli ascoltatori che smettano di dormire e che vengano a trovarci oggi, prima giornata, con le due ore. Tutti convocati. Questo è il ballo del qua qua, e di Papero che sa fare solo qua qua qua, di qua qua qua qua. Mamma Papero e papà con le mani fanno qua qua, e una piuma vola già di qua e di là. Le ginocchia piego un po', poi scodinzola così, batti forte le tue mani e fai qua qua. Con un salto vai più là, con le ali torna qua, ma che grande novità di qua qua qua. Grazie. Sì, dai, la mia prima, qualche papera. Consentitemela, poi recupereremo settimana prossima. Si ricomincia a giocare, si ricomincia con un calcio che speriamo ci dia tutte le grandi soddisfazioni e nessun pessimo episodio. Si ricomincia anche con la domenica sportiva. E quindi grazie per essere con noi. Cominciamo immediatamente con il salutare, mandare un abbraccio a Paola Ferrari. No, la provocazione arriva da casa, arriva da Twitter, tanto per cambiare. No, le papere, certo, la prossima altre papere, nuove papere. Nostra signora del calcio, San Paola Ferrari, che non è più conduttrice della domenica sportiva, il suo posto è stato preso da Sabrina Gandolfi, che le manda, l'ha mandato ieri in apertura del programma, avete sentito, un abbraccio caloroso, e oltre a Paola Ferrari ha metaforicamente abbracciato Fulvio Colovati e Gene Gnocchi, cioè quelli che ha detto sono stati mandati via. Abbiamo aspettato 4 mesi che ricominciasse tutto, ne valeva la pena. Ma ovviamente c'è del pregresso, ci sono delle polemiche, soprattutto sui social network, tra le due stelle della domenica sportiva, Ferrari e Gandolfi. La Ferrari aveva già detto: la Rai mi ha preso a schiaffi, se non mi chiederà il contrario me ne andrò. E poi insomma, il livello dei tweet è diventato sempre più pesante, fino ad arrivare a questo. Sabrina Gandolfi ha pubblicato la sua foto in studio mentre si prepara la diretta. Paola Ferrari ha risposto: domani mattina guardati allo specchio, sai il coraggio, dimenticavo, complimenti per i denti rifatti. Lui Mihajlovic ci ha detto: ci siamo raccontati delle barzellette quando ci siamo visti, e poi l'ha ringraziata per il mercato. Allora, è vera questa storia di barzellette? Che barzellette erano? Sì, sì, è vero, perché io ho fatto 3 film a Palermo e gli ho parlato un pochino palermitano, se ne ho messa, uno a uno, va bene, ci sta, buonasera a tutti, ciao Ilaria, sei la donna che fa il pallone, ma quando vuoi fare l'attrice ti faremo fare un grande film. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a Marchegiani e saluto Di Marzio e Boba e tutti i grandi di Sky. E la nostra signora del pallone e il nuovo grande personaggio che è Ferrero, presidente della Sampdoria. Poi per radio la faccia di Ilaria D'Amico non si vede, ma valeva molto di più di 1000 risposte. 800 24 00 24, ragazzi, sveglia, siamo tornati, io, Pardo, tutti convocati, Piantanito, tutti quanti, per stare 2 ore con voi e soprattutto per parlare con voi. Cristian, buongiorno. Buongiorno. Dica. Domanda. Risposta. Inter, Toir, Mazzarri, Moratti. Toir, grandissima bufala. Uno che manda via un idiota come Branc e tiene comunque uno capace come Ausilio. Tiene un allenatore che paga 3-4 milioni di euro che non ha mai fatto niente, anziché magari prendere un allenatore come Zenga, comunque un patriota della maglia, che farebbe in ogni caso giocare molto meglio l'Inter, come la fa giocare lui, avendo comprato 2 picchiatori come Medea e Mpilla, che fino a ieri mattina nessuno sapeva chi fossero, e non riesce mai ad esprimere un gioco. Ha snaturato un giocatore come Kovacic, che sicuramente qualche club più furbo di noi ce lo porterà via, se non è a gennaio sarà l'altro anno, perché nessuno riuscirà mai a ripetere quello che in 18 anni, dopo tutte le ruberie che sono state fatte da chi sappiamo noi, è riuscito a fare Moratti con tutto il sacrificio. Punto, domanda, voi che siete esperti, date una risposta e attendo buona risposta. Va bene, io ci provo, ci proverà anche Savia Iacobelli, che è collegato con noi. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Mi sembrano soltanto critiche tra mercato e prodotto di un tifoso deluso per uno 0-0 a Torino. A me questa Inter continua ad ispirare fiducia. Io l'ho detto, secondo me dovrebbero fare una scelta di campo e puntare forte sull'Europa League, perché sarebbe un grande e tutto sommato raggiungibile obiettivo per l'Inter. C'è un terzo posto che questa squadra può prendere. Continuo a pensare che l'Inter sia una delle squadre uscite meglio dal mercato dei poveri, no? Condivido la tua opinione, ricordando anche che chi vince l'Europa League quest'anno va in Champions League. Esatto. E quindi c'è un motivo ulteriore per battersi fino alla fine in questa competizione, che purtroppo le squadre italiane in questi ultimi anni hanno colpevolmente snobbato, con il risultato che abbiamo perso il quarto club in Champions League. Il terzo deve entrare nella fase a gironi passando sotto le forche caudine nel turno preliminare, e poi succede quello che è successo al Napoli. Sì. E quindi, ma credo anche che in linea generale, considerata la ristrettezza di operatività che Ausilio ha avuto a disposizione dal punto di vista economico, perché l'input di Tohir è stato chiaro, ma d'altra parte non dimentichiamo come il nuovo proprietario dell'Inter abbia trovato una situazione di bilancio pesantissima, e quindi certo, il suo primo compito sia quello di risanare il club. Certo. Poi però io credo che siano arrivati acquisti mirati, mi riferisco per esempio a Bidic, nonostante la disavventura in cui è incappato ieri sera, che non è colpa sua, perché secondo me non doveva essere espulso, ma questo è un altro paio di maniche. Penso a Ambilà, penso alla conferma di Icardi, richiesta dall'Atletico di Madrid per 25 milioni di euro, rimasto in nero azzurro. Sì. Vedremo adesso in queste ultime ore che cosa accadrà sull'asse Lavezzi Bonaventura, perché Guarin, perché il nodo del mercato dell'Inter è più che mai Guarin. Se non viene ceduto il colombiano non arriva nessuno, se viene ceduto il colombiano può arrivare qualcuno. Sì. Lavezzi costa 25 milioni di euro, Bonaventura costa 10 milioni di euro, e secondo me sarebbe un'ottima alternativa. Forse l'unico torto di Bonaventura è di non avere un cognome straniero, ma questo, sì, questo è vero, anche se penso lontano. Direttore, che Lavezzi davvero sarebbe un valore aggiunto per l'Inter, Beh, certamente sì, il problema è che costa 25 milioni di euro di solo cartellino, è un ingaggio di circa 5 milioni di euro a stagione, netti, sì, che vuol dire 10 per la società. Quindi, sì, come ben sappiamo, quando tu hai definito il mercato dei poveri, hai usato una definizione molto appropriata. Qui 9 operazioni su 10 sono prestiti secchi o prestiti con diritto di riscatto fra un anno, sì, o pagamenti dilazionati in 4 anni. Poi ci sono le follie come quella fatta oggi dal Manchester United. Nei giorni scorsi si è parlato, sai benissimo, di Falcao alla Juventus, certo, e Falcao, c'è un accordo eccetera. Per quanto ne sapevo io, era un'operazione totalmente irrealizzabile. Le cifre dell'operazione di oggi me lo confermano, che 34 milioni per il prestito. La Juventus ci ha provato, perché ad un certo punto sembrava che il Monaco, anche per accontentare il giocatore e il suo potentissimo agente, ovviamente, che è uno dei padroni del mercato, accettasse l'ipotesi di un prestito. Però per il solo prestito alla Juventus aveva chiesto 12 milioni di euro, ma soprattutto per quanto riguarda il pagamento dell'ingaggio, il Monaco non voleva accollarsi nemmeno un centesimo, e Falcao percepisce 12 milioni di euro netti a stagione. Sì. Quindi 24 milioni lordi sono dei soldi che per prendere un giocatore per un anno sono una totale pazzia. Sono una totale pazzia. Infatti la Juventus non l'ha fatta, giustamente. No, la Juventus giustamente non l'ha fatta. Il Milan invece è grande protagonista di tutti i luoghi del mercato, compreso le pagine di calciomercato.com. Immagino oggi, preso anche Biaviani, Van Ginkel, è arrivato Torres l'altro giorno. È un grande classico del 30-31 agosto rossonero. Ma devo dirti che prima di queste tre operazioni che tu hai citato, il nostro voto era 4 al mercato del Milan. Adesso diciamo una larga sufficienza. Sì. Ma siccome siamo abituati a giudicare le squadre non dalla prima giornata di campionato né dalla seconda, perché ce ne vorranno almeno dalle 8 alle 10 per capire esattamente il valore assoluto delle formazioni, io penso che in questo momento più che mai il valore aggiunto del Milan sia Filippo Inzaghi. perché ha trasmesso a questa squadra, e lo abbiamo visto anche nel modo in cui è esultato insieme con i suoi giocatori ieri dopo il gol alla Lazio, quello spirito di appartenenza, quello spirito del Milan che nelle ultime due stagioni era andato completamente perso, anche perché non dimentichiamo come esattamente due anni fa, estate del 2012, l'organico del Milan venne raso al suolo dalla società. Certo. Non poteva più sostenere un monte ingaggi lordo annuo di 180 milioni di euro. Follia totale. Sì, anche se adesso quelli del Milan non guadagnano poco, questo è un altro mistero buffo, no? Cioè prendono giocatori a parametro zero, però giocatori molto costosi. Mi viene in mente Essien con il contratto biennale, lo stesso Torres è un giocatore che è molto costoso dal punto di vista dell'ingaggio. Quindi da questo punto di vista la politica societaria faccio fatica a capirla. Ma sai, questa è una domanda che bisognerebbe porre a Galliani, autodefinitosi il Condor, mi va benissimo, può ricorrere a tutta l'ornitologia del globo per spiegare le sue prodezze negli ultimi giorni di mercato. Mi va molto bene, però non mi va bene quando io guardo e scorro l'elenco di altri acquisti arrivati nell'arco degli ultimi tre anni, che poi sono stati ceduti dopo fatiche inenarrabili, Robinho, altri che sono arrivati, tornati e poi ripartiti, Kakà, altri Constant, altri di Dak Vila, per esempio, dato per fare un nome, Taiwo, e poi potremo andare avanti molto. Quello che tu sottolinei è che ci siano delle contraddizioni, perché questi ingaggi sono veramente molto pesanti. La domanda che mi pongo è: ma quando vengono sottoscritti i contratti che vengono liberamente firmati, non certo, tutto il contrario, ma dico, la società Milan pensa che poi siano o non siano ammortizzabili nel corso del tempo? Sennò poi si riduce, come si è ridotta due anni fa, a vendere Thiago Silva, a vendere Ibrahimovic, a non rinnovare contratti pesanti, e tutto quanto sappiamo essere accaduto. Certo, anche perché poi non è facile vendere Robinho, nemmeno regalarlo, se questo prende 4 e mezzo all'anno, perché chi glieli paga quei soldi? Intanto Cristante è andato al Benfica. Prego. No, dicevo, Cristante è andato al Benfica, questa è una mossa un po' sorprendente, titolo definitivo 6 milioni, se tu dici Inzaghi, Milan, giovani, provi a fare questo parallelismo, suona questo un po' strano. Questo secondo me è un errore, ed è un errore clamoroso. Stiamo parlando di un diciottenne che non appena compì 18 anni si vide sottoporre la firma di un contratto quinquennale. In Cristante nelle scorse settimane ci hanno detto non che sarebbe diventato il nuovo Pirlo, ma che il Milan sperava potesse diventare un grande giocatore, e adesso va al Benfica a 18 anni. Io l'altra sera ho visto, in occasione di Athletic Bilbao-Napoli, entrare in campo al 27esimo del secondo tempo Unai Lopez, 18 anni, prodotto del vivaio di un club basco che è nella fase gironi della Champions League, che è arrivato quarto nell'ultima Liga Spagnola alle spalle delle superpotenze Barcellona-Real Madrid, nonché dell'Atletico Madrid di campione di Spagna. Allora la domanda è inutile che ci veniate a dire che bisogna valorizzare i giovani e poi mandi Cristante al Benfica, dove sicuramente farà un grande campionato. Certo, sicuramente, certo. Non lo metto per iscritto adesso. Certo, ma probabilmente la strada è questa, anche per i nostri giovani la strada è questa. Ti chiedo ancora una cosa, il Parma sta smobilitando molto stranamente, tu ti aspetti che nelle ultime ore succeda qualcosa anche intorno al nome di Cassano? Pardo dice di no, dice, l'ho sentito al telefono, ha detto no, non so niente, ho appena finito di mangiare. Se lo dice Cassano, Pardo, lo che dice Bardo, abbia un canale privilegiato con il medesimo Cassano, però certamente questi movimenti in uscita del Parma non credo confortino Donadoni. Volevo fare un passo indietro e sottolineare, a proposito di giovani, che ci sono delle eccezioni. L'Atalanta di Colantuono, settimo campionato sulla panchina nerazzurra, conta nel proprio organico 12 giocatori cresciuti a Zigonia. Lo stesso Sportiello, 21 anni, che ieri è debuttato molto brillantemente al posto di Consigli, cresciuto a sua volta nel vivaio di Zingonia, è un prodotto della scuola di Favini. Sì, certo. Questo vuol dire che se tu hai dei giovani di valore e credi in questi giovani e li butti nella mischia, questi giovani ti ripagano, se non ricevi è meglio. Certo, ricevi quando evidentemente c'è come ha fatto l'Atalanta. È una politica storica questa dell'Atalanta, che ci riporta anche alle generazioni dei Doradoni, Pacioli, certo, eccetera, eccetera, di Magrin e così via, Scirea, Cabrini, Fanna, Tavola, Cabrini, è una lunga tradizione ed è un modo di gestire la questione. Un altro modo di gestire la questione, che per me ha pari dignità nel calcio professionistico, è quello dell'Udinese, che ha una politica totalmente diversa, è una politica molto più aperta verso gli altri mercati, però mi sembra parimenti un modo eccellente di gestire il calcio. Dopodiché gestiscono in maniera strepitosa un fenomeno, perché di fenomeno si deve parlare, che risponde al nome di Antonio Di Natale, che è italiano. Questo è chiaro. Grazie, direttore. Un giocatore di questa caratura è straordinario. Grazie, direttore, buon lavoro nelle ultime ore di mercato. Buon pomeriggio. Grazie a Savia Jacobelli. difficile, dai. E agghiacciante è quello che dicono. Fatto un allenamento di 50 minuti dovendo gestire un recupero di forze per alcuni e iniziare a mettere un po' di idee mie di calcio. Sono molto contento perché sembrava, ecco, che questa fosse una squadra che l'allenassi già da un po' di tempo. Tutti sospettano che c'è qualcosa sotto. Tre aggettivi per questa nazionale, la sua nazionale, tre aggettivi. Ma è sicuramente orgogliosa. Aspetta, è difficile, dai. Umile e cattiva. E agghiacciante quello che dicono. Ma a me piace in concomitanza dell'evento che ci siano poche distrazioni, ecco, che il calciatore comunque sia concentrato sull'evento, che si concentri molto e pensi poco ad altre cose, ecco. Che possa essere il Twitter, che possa essere il giochino elettronico, che possa essere a volte anche la risata in più, ecco, perché ci sono momenti e momenti. Io ho fatto il calciatore, c'erano i momenti in cui ti diverti, c'è il momento in cui sai che ti devi concentrare, devi essere comunque sul pezzo. Aspetta, è difficile, dai. Volevo sapere se sei talmente attaccato alla nazionale che lo costringerei a passare la prima notte di nozze con te, o se lo lasci con la moglie almeno stasera. Ma fosse per me, Destro doveva tagliare la torta e tornare subito al ritiro, quindi non. Poi, valutando un pochettino il più e il meno, lasceremo qualche ora a Mattia e alla moglie, ma e poi ci sarà una macchina che lo porterà qui a Coverciano. E agghiacciante è quello che dico. In manette. E agghiacciante che è una gabbia respiratoria. Questa conferenza stampa di Antonio Conte di oggi a Coverciano. Dunque, povero Destro, gli fa tagliare la torta, poi vieni subito qui. No, aspetta, ti regalo la signora per qualche ora, poi arriva la macchina, ti prende e ti porta via. Ci sta tutto, anche il mucchio selvaggio. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Ha ragione Conte? Taglia la torta e vieni qui. Sì. Che mi frega se ti sei sposato, eh? Ah, sì, infatti. Sì. Va bene. Dimmi. No, io, caro, avevo due domande, cioè, sull'Inter. Una era, per quanto riguarda la Vessi, volevo sapere se, diciamo, potrebbe essere un giocatore che ha un po' la parabola discendente, nel senso che ha 30 anni, dove la sua, diciamo, arma migliore è la corsa. E, ecco, sapere se magari, no, qualcosa ancora penso potrà dare all'Inter. Credo anch'io. Cioè, sì, Lavezzi, ecco. Allora, Lavezzi penso possa essere un giocatore anche per caratura internazionale, per l'esperienza che ha, per il rapporto che ha con Mazzarri, che lo conosce perfettamente, per mille ragioni penso possa essere davvero il valore aggiunto ad una squadra già buona ma che ancora non ha tantissimo talento. È un giocatore che all'Inter comunque servirebbe tantissimo, perché con due giocatori come Icardi, che ha movimenti solo verticali, non è uno che ti fa tanto salire la squadra, e questo può essere uno dei dubbi della squadra di ieri, perché giochi con una sola punta, Icardi, che e con centrocampisti di talento, ma per innescare le incursioni di questi centrocampisti di talento devi avere centravanti che è in grado di farli salire. Icardi ha altre caratteristiche. Poi hai Osvaldo, che invece queste caratteristiche le ha, che ha colpi diversi, che è un super giocatore se si trova nell'ambiente giusto, anche su di lui ci sono molti se, molti mai, molti forse. Quindi da questo punto di vista sei coperto. Hai Palacio, che si sa che qualche problemino fisico non semplice da risolvere se lo porta dietro da un pezzo. Questi sono i tre attaccanti dell'Inter. Credo che un giocatore come Lavezzi, che ha caratteristiche diverse comunque da tutti questi tre, possa essere il giocatore ideale per salire un altro paio di gradini per questa Inter, che comunque, ripeto, a me piace così come è strutturata. Ma comunque è vero, anche il lungo sodalizio con Mazzarri, che sicuramente sono tutte cose che contano, insomma. Esatto. Le squadre si fanno certamente, l'idea migliore è prendere giovanissimi di grande talento e aspettare che esplodano e prendere il e fare il colpo grosso. Pogba, Kakà, ce ne sono molti, Thiago Silva, questa è la strada ovviamente d'oro, però per costruire una grande squadra serve anche un mix di giocatori di questo tipo e di giocatori che invece ti diano certe garanzie, e credo che Lavezzi in questa Inter potrebbe essere più di Buonaventura davvero un giocatore importante. Non mi ha convinto tanto l'Inter di ieri sera, mi ha un po' deluso, devo dire, perché mi aspettavo di più, non in valore assoluto ma in proporzione a quanto espresso nel precampionato, semplicemente questo, quindi non è una critica, semplicemente una constatazione alla partita dell'Inter di ieri sera. Poi vincere a Torino è vero, non sarà facile per tutti, è vero che il Torino è una squadra talmente messa bene in campo da abbassare il livello del tuo gioco, cioè da costringerti quasi a giocare un po' peggio di quanto potresti fare. Paolo, provincia di Pordenone, buongiorno. Buongiorno Senza. Dica. Noi qua tutti quanti aspettavamo di vedere Cristante in prima squadra. Noi siamo eravamo tutti tifosi, no? Lo conosciamo personalmente, quindi lo si seguiva, no? Quindi 5 anni che è al Milan, l'hanno curato come un bambino, l'hanno tirato su, l'hanno fatto giocare, gli hanno dato fiducia, guaio toccare Cristante, e il Milan, finalmente siamo ritornati al Milan che si tirava su il Maldini, che si tirava su tutti quanti i grandi baresi che sono rimasti anche quando sono andati in B, eccetera, dico finalmente, e dopo lui era un personaggio che, conoscendolo personalmente, avevamo sicuramente tutte le garanzie che potesse esplodere. Sì. Non l'hanno fatto giocare, non solo non l'hanno fatto giocare, adesso lo vendono per 6 milioni. Mm. Per 6 milioni, un milione a danno di allevamento, come i pulcini. Dai ragazzi, però Paolo, posso guardarla? Io la guardo, lei la guarda da tifoso del Milan, da amico, ammiratore di Cristante, io la guardo da un'altra prospettiva. Il Milan avrà fatto i suoi conti, anch'io è un'uscita che non riesco a capire, perché 6 milioni non sono pochi per un giocatore che deve ancora affermarsi, ma non sono nemmeno quei soldi che ti risolvono la vita. Però voglio guardarla anche dalla prospettiva di Cristante, che va a giocare nel Benfica, in un club che in questo momento è di prima fascia europea, leggete i sorteggi dei gironi di Champions League, prima fascia insieme al Porto, è una squadra che arriva stabilmente nella fase finale delle coppe europee, giocherà per il titolo, contenderà il titolo al Porto presumibilmente nel campionato portoghese, che ci ha bagnato il naso dal punto di vista ranking UEFA, queste cose le sapete meglio di me. Ebbene, Cristante va lì a fare titolare, così come Immobile è andato a fare titolare nel Borussia Dortmund. Ebbene, io sono contento per Cristante e spero, lo seguirò con grande attenzione, spero che un giovane giocatore italiano, qui non lo facevano giocare, va nel Benfica, ripeto, squadra di prima fascia, va là, magari gioca titolare, fa un grande campionato, ci alziamo tutti in piedi ad applaudire lui, il Benfica e non chi l'ha ceduto. Magari si alzi in piedi anche Conte ad applaudire a questa scelta di Cristante. Borsa, yes, poi torniamo, sì, 800 24 0024, numero verde. Cristante impittato al tiro, Cristante! Convocati. No, di buona parola non si è vista, la reazione, ribadisco, è molto legata alla qualità che si riesce a esprimere. Noi sappiamo di non abbiamo dubbi da questo punto di vista di poter fare molto meglio di quello che abbiamo fatto vedere questa sera, perché l'abbiamo fatto vedere nell'ultima settimana giocando contro due squadre molto forti e non giocando magari perfettamente bene, ma sicuramente meglio di quello che abbiamo fatto questa sera. Quindi è una questione davvero anche di interpretare adesso il momento, qua non c'è lavoro tecnico da fare, non c'è allenamento, c'è da andare in campo, conoscere, come ha detto spesso, la formula, dimenticarsela e concentrarsi sulla gara che arriva e sicuramente impattare anche le partite molto meglio dall'inizio, perché poi quando le gare in un girone difficile come questo incominciano in salita, tutto è più complicato. Questo era Mauro Berruto, il CT della nostra nazionale di pallavolo, che ha iniziato nel modo peggiore i campionati mondiali, perdendo 3-1 a Cracovia con l'Iran. Domani c'è la Francia ed è già una partita decisiva. Azzurri con un pessimo approccio a questo mondiale. C'è dall'altra parte invece, sempre notizie da altri mondi dello sport, c'è Sara Errani, che ha conquistato i quarti di finale degli US Open, e stanotte aspettiamo Flavia Pennetta, perché potrebbe ricrearsi la coppiata italiana ai quarti di finale. C'è anche un moto mondiale che ieri a Silverstone ci ha fatto vedere una gara davvero bella, con il solito noto sull'ultima pagina del libro, con il solito killer, con il solito assassino che conosciamo bene, che si era preso un giro di vacanza, ieri è tornato, ma dopo battaglia grande. Taglio tra il traguardo di Marquez, che va a vincere. Jorge Lorenzo secondo, lotta per il terzo posto, Rossi contro Pedrosa, ancora pochi metri, e per tagliare la terza posizione Valentino Rossi, due Yamaha sul podio, Lorenzo secondo, Rossi terzo, poi Pedrosa Dovizioso in quinta posizione. È bastardo, il grande. Ma bastardo è bastardo. A me mi dice piccolo bastardo, lui è il grande bastardo. È bellissimo salire sul podio e qui a Silverstone, perché è la prima volta della mia carriera. Questa è stata sempre una pista che mi ha fatto arrabbiare. Il piccolo bastardo, il grande bastardo, il primo è Marquez, il secondo Valentino Rossi, in mezzo c'è Lorenzo, arrabbiato perché le ha prese da Marquez, però ieri ha combattuto un grande duello. Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera, ciao. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. In fondo bella corsa, solito assassino, ma bella corsa. Sì, non è certo un thriller in moto mondiale, no. No? Se è un thriller sappiamo sempre chi è il colpevole come il maggiordomo, però... le gare sono belle e anche ieri è stata entusiasmante. Lorenzo si lamenta, però io credo che non abbia ragione, ecco. Uh-huh. lo dico chiaro, direi che tutto il paddock si è schierato con questa tesi, perché alla fine queste sono le cose. Uh-huh. Questa non è musica classica, usava a dire Biagi vent'anni fa, e quindi insomma io credo che ci muoviamo all'interno dei limiti, l'ha fatto anche lui, l'hanno certo fatto altri, quindi insomma così è. Se ricordate, se 15 giorni fa, se non sbaglio, ci fu un duello molto bello tra Iannone e Marquez, proprio a colpi di carré, sì. E Marquez disse va bene, mi piace, mi diverte, insomma. Quindi credo che Jorge, che io stimo molto e che è un grande pilota, però ogni tanto quando perde si attapira, sì. Ma io credo che sì, si attapira sul serio. È una stagione, sta vivendo una stagione da attapirato, però Alessandro, io credo che in queste parole, nelle quali in fondo non ci crede neanche lui, abbiamo episodi che l'hanno visto protagonista di questo tipo, ti ricordi con Pedrosa l'anno scorso, eccetera. Quindi è chiaro che anche Lorenzo, come tutti i grandi campioni, guida in quel modo lì, ha i limiti borderline con il regolamento, e che i grandi piloti queste cose le accettano. Il vero problema è che quest'anno le ha prese sempre da Marquez, e mi sembra davvero molto frustrato, non per quanto è successo ieri. Sì, chiaro, chiaro, lui si porta dietro una frustrazione che è cominciata, se ricordate bene, con la prima gara. Lui le prime due gare ha fatto due disastri inenarrabili, lì ha perso il suo campionato, che probabilmente non avrebbe vinto comunque, però ricordiamo l'anno scorso lui vinse 8 gare, Marquez 6, quindi insomma fece un campionato, tant'è che Marquez lo vinse all'ultima gara. Quest'anno è partito male e è proseguito peggio, che io dico che è vero questo, la frustrazione parte da lontano, le ha prese Marquez e diciamo adesso si è ripreso, ma le ha prese anche da Valentino, le ha prese da tutti, insomma, purtroppo Orgen poi in un'annata no, però io sono contento, cioè sottolineo il fatto che si sia ripigliato, perché a un certo punto della stagione si pensava fosse proprio out anche mentalmente, no? Invece vederlo qua è molto importante per lui, per tutti, quindi insomma vediamo il lato positivo della cosa, A parte che è un enorme pilota, secondo me. Poi sì, c'è anche in ballo il discorso della prossima sella per Lorenzo, Ma sai, sì, per il momento è Yamaha, poi si vedrà. Dal 2016 in poi, con i cambi regolamentari e tutto, credo che vedremo una bella MotoGP, spero in un rimescolamento, anche se io mi schiero con quello che sta ripetendo in questi giorni Dovizioso, sto parlando un po', come dire, pro domo sua, però è un vecchio concetto che sosteneva Valentino e tutti sosteniamo, è il pilota che fa la differenza. Quindi poi alla fine le moto, sì, per carità, contano e fume, e la storia di Valentino in Ducati lo dimostra, però insomma il rimescolamento non credo che possa portare a tanti sconvolgimenti o a battere Marquez, però in futuro ci sarà e chissà, quindi anche cambi di moto, anche perché entreranno nuove case, come sappiamo, Suzuki, Aprilia. In questa stagione ci sono due costanti, una la conosciamo, cioè il nome dell'assassino che è sempre lo stesso, sì. la seconda è il dottore, che tutto sommato sta facendo un campionato di grandissima regolarità, credo vicino al suo limite attuale, forse sul suo limite attuale. Sì, Valentino sta facendo un'ottima stagione, 8 podi su 12 gare sono un bel bottino, e gli manca l'acuto e lui lo ha proprio detto l'altro giorno a domanda precisa, dice ma meglio arrivare secondo nel mondiale o vincere una gara, dice insomma mi piacerebbero tutte e due le cose, ma la vittoria in una gara alla fine la sceglierei, perché è quello che gli manca. L'anno scorso paradossalmente in un campionato meno buono una gara l'ha vinta, ecco, forse manca questo, ma per il resto lui c'è, anche se ieri ha preso parecchio da Lorenzo, quindi ieri insomma una bella gara nel difendere il terzo posto, però lontano dal compagno, quindi ieri insomma un pochino ha perso, ecco, per dirla, visto che il compagno è sempre riferimento principale. Questo sì, non, però è riuscito, vabbè, a stare per due. Insomma, io concordo, una grande stagione, ma questa è tutta una grande stagione secondo me, perché anche la Ducati sta crescendo. Appunto, questa era l'ultima cosa che volevo chiederti, la Ducati dal punto di vista delle premesse stagionali è il fattore che più mi sta sorprendendo in questo moto mondiale, cioè Dovizioso che sta guidando benissimo secondo me, ma la Ducati è chiaro, dietro le prime due, l'anno scorso viaggiava tra la nona e l'undicesima, la quattordicesima posizione all'interno del gruppo, quest'anno è stabilmente dietro le prime due, Yamaha e Honda. È verissimo, è un bel incrocio di fattori, Dovizioso è un ottimo pilota, ed è il pilota giusto perché guida bene, sa collaudare da quello che chi parla bene, il feedback, cioè diciamo le informazioni giuste ai meccanici e agli ingegneri, sono un pilota d'esperienza. In azienda, cioè al box e a Bologna, lavorano molto bene, stanno sfruttando bene il regolamento, quindi avere 12 motori ha consentito magari di romperne qualcuno in più, ma insomma di cercare soluzioni un pochino più estreme di sviluppo. Quindi sommando questi fattori, lo spirito nuovo, se vuoi, anche del post-Valentino, eccetera, eccetera, sta portando grandi frutti. Io dico che un Ducati che arriva a 9 secondi, perché poi è questo il valore fondamentale, oltre al quinto posto, 9 secondi, quando in passato eravamo abituati a vederla a 20 secondi, magari la vedremo ancora, però insomma sono segnali importanti. Ci sarà forse già un qualcosa di nuovo ad Aragon e, si diceva, con i nuovi regolamenti in futuro io la vedo protagonista. E questo sarà con Iannone, ricordiamo, nel 2015. Sì, quindi certo. Un made in Italy totale, gioia di chi dice che la moto italiana è in crisi, che un po' è vero, e allora meno male che qualcosa si muove, ecco. E si muove anche benino, si muove anche piuttosto velocemente, diciamo. Velocemente. Grazie, sì. Ale. Grazie, buon lavoro, Alessandro Pasini. Grazie. Tutti convocati. Siete ragazzi, 800240024, da oggi e per la stagione, insieme due ore, Pierluigi Pardo è tornato, Franco Piantrini è tornato, siamo tutti qui a farvi compagnia ogni giorno, dalle 14 alle 16. Che numero? Passate parola, 800240024, Giulio Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io la prima osservazione la volevo fare sul Napoli. Secondo me Benitez era da cacciare, perché lui non ha preparato la partita che era la conclusione di un'intera stagione della volta scorsa, non l'ha preparato la doppia gara con la dovuta serietà e con la convinzione dell'altra squadra, e quindi ha praticamente compromesso un intero anno precedente, sì, che aveva già dato segnale. Quindi secondo me un dirigente e un comandante che deve, che ha un obiettivo preciso e che dietro ha una, a tutta una costruzione, che è una spesa che è durata un anno e la fallisce, sì, in quel modo, per me è da sostituire. Allora, la seconda cosa, era sul giovane Cristante, mi chiedevo se voi sapevate se l'altro amministratore delegato era d'accordo con questa operazione e se sì o se no, se poteva interferire. L'altro amministratore delegato, cioè quello che si occupa della parte commerciale? Sì, che però è la proprietà. Sì. Contrappeso è la proprietà, quindi avrebbe in teoria diritto, sì, sugli asset aziendali di dire lo suo. Sì, io credo che non l'abbia fatta soltanto Galliani questa operazione, credo che posso immaginare e pensare che tutte le componenti fossero d'accordo nel cedere Cristante, per il quale, ripeto, ok, possiamo essere sorpresi o dispiaciuti da tifosi del Milan, Mario Inzaghi, ci aspettavamo giovani in prima squadra, questo Cristante è un giocatore interessante, ha 18 anni, è giovane, il discorso su Cristante l'abbiamo già fatto. Mi limito ad aggiungere che io sono contento per Cristante, va a giocare nel Benfica, un grande club, fa la Champions League, sarà presumibilmente titolare, avrà molto spazio, molto più spazio di quanto non avrebbe avuto in Italia, il perché non lo so, perché da noi far giocare i giovani è molto più difficile. Gli altri li vanno a prendere, investono 6 milioni che per il Benfica non sono pochi, si portano a casa Cristante, lo fanno giocare, farà esperienza, anche esperienza internazionale, vuoi vedere che magari tra 2 anni è un giocatore che sarà titolare agli europei. Allora, da questo punto di vista, ben vengano degli esodi, delle fughe, non dei cervelli e dei piedi, delle fughe dei giocatori dal nostro paese verso altri campionati in cui, che sono di alto livello, in cui possono trovare spazio. Quindi non riesco ad essere così addolorato per il fatto che un giovane giocatore italiano vada a giocare in un importante club europeo che farà la Champions League, così come non riesco ad essere addolorato del fatto che Ciro Immobile, capocannoniere dello scorso campionato, sia andato a giocare titolare nel Borussia di Dortmund, grande squadra allenata da un grande allenatore. Ecco, se vogliamo fare un discorso in prospettiva nazionale, sono tutte considerazioni che hanno un segno positivo dal mio punto di vista. Quanto alla prima domanda, adesso mi è sfuggita, nella foga di rispondere a questa seconda, caro Giulio, la prima domanda non me la ricordo più, era su Benitez. Allora, su Benitez io credo che, lo dico da 4 giorni, che abbia gestito in maniera pessima questo preliminare di Champions League. Continuo a ritenere, su questo non siamo tutti d'accordo, ma pazienza, il mio punto di vista è che il Napoli fosse, sia anche con le assenze, un mercato così, un mercato non convincente, mettendo tutte queste componenti, io credo che il Napoli sia più forte dell'Athletic Bilbao, abbia giocato 2 pessime partite e sia stato preparato a questo doppio impegno in maniera pessima da Rafa Benitez. Da lì a dire basta questo per buttare ad agosto, per buttare nel cesso il lavoro di un anno di un allenatore che si è scelto, si è difeso, su cui c'è la grande fiducia, beh, questo mi sembra tanto, questo mi sembra eccessivo. Certamente De Laurentiis, qualche chiacchiera con Benitez la farà, certamente De Laurentiis non sarà molto contento dell'operato dell'allenatore che ha voluto, pagato e difeso. Pietro, provincia di Forlì, buongiorno. Sono io, ciao Zeta. Ciao. Convocato, gioco titolare. Grande. Ieri sera Cesena-Parma, Cesena 10 italiani, uno straniero per modo di dire, Rodriguez, tra l'altro l'autore del gol, cresciuto nel vivaio del Cesena, e io penso che questa sia la strada per risollevare un po' il calcio italiano. Io spero, non so quando ci sarà Cesena-Sassuolo, ma spero di vedere in campo 20 giocatori italiani. Non so se ha capito il mio messaggio. Via. Sì, ho capito, ma guardi, io spero sempre di vedere in campo nel massimo campionato del mio paese dei giocatori bravi, Piero. Se sono italiani è meglio, però voglio vedere dei giocatori bravi, voglio vedere anche, mi interessa vedere anche Coman, si è detto l'altro giorno, la Juventus che ha le scintille per essere un grande giocatore, è chiaro che una partita non conta nulla, sono molto felice che il nostro campionato sia frequentato da un giocatore come Pogba, no? Che è, certamente non è italiano, non è di queste parti, ma è uno dei grandi talenti che il calcio italiano in questo momento possiede. Dunque, torno a ripetere, lo so che la mia posizione è differente rispetto alla vostra, continuo a fare l'esempio dell'Udinese, ok, tutti quanti, e su questo punto c'è larga unità di vedute, siamo tutti d'accordo nel dire che l'Udinese è uno dei club meglio gestiti a livello interplanetario, ed è vero. Tra l'altro l'Udinese ha delle società satellite all'estero, ha la possibilità di far crescere i loro giovani, di far crescere i suoi giovani in un campionato piuttosto che nell'altro. A proposito dell'Udinese, c'è questa notizia che ve la do così en passant perché è curiosa e sinceramente senza spiegazione. Sapete che l'Udinese ha un club inglese di proprietà che è il Watford, è allenato da Giuseppe Sannino, allenatore italiano che conosciamo bene. Ebbene, ha preso la squadra l'anno scorso al posto nel dicembre del 2013 al posto di Zola e ha portato questa squadra a un 13° posto, non male viste le premesse nel campionato inglese, in Serie B inglese. Adesso, inizio campionato, 4 vittorie nelle prime 5 partite, primo posto nella Championship, cioè la Serie B inglese. Ebbene, Sannino cosa fa? Si dimette. Ma perché Sannino? Ho preso in mano una squadra di grande talento e sono fiero di quello che abbiamo raggiunto e non ho dubbi sul fatto che la squadra conquisterà la promozione in Premier League. Sento di aver dato tutto quello che potevo. Ma come? Hai dato tutto quello che potevi? 4 vittorie in 5 partite, primo posto in classifica, te ne vai. I'm very happy for the support. Also, they very, very more fun this win in a study very, very important for us. So the win is for them. The win is for the fans. La vittoria per i tifosi, dedicata ai tifosi. Adesso, I think. I think. We will win with sacrifice, magari. No, comunque, ma la spiegazione potrebbe essere questa. Sannino si è reso conto di essere la butto lì, invento. Si è reso conto di essere un allenatore che può dire la sua nel calcio inglese. Adesso aspetta. Allora, primo in classifica, 4 vittorie in 5 partite. Aspetta un attimo, adesso che ho credito, mi faccio un corso rapido d'inglese, torno indietro e vado. E punto alla panchina dello United. Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Allora, no, volevo chiudere il discorso sull'Udinese. Ripeto, Udinese, squadra che a me affascina moltissimo come politica e a me piace molto vedere giocare in Serie A anche giocatori come Pereira, come Benazia che abbiamo venduto, il campionato italiano che la Roma ha venduto per un mucchio di soldi al Bayern di Monaco. Come Muriel che vediamo se esplode, spero che esploda, come Sanchez che è uno dei top player in questo momento del calcio europeo, sono passati tutti di lì, li abbiamo visti, l'Udinese con loro ha fatto grandi risultati, li ha commercializzati, li ha venduti, poi ne ha preso degli altri, molto giovani, sempre, da ogni dove, li fa crescere e propone un calcio che è bello da vedere. Quindi, secondo me, questo è il senso del discorso. Se poi sono italiani, meglio. Ma se non lo sono, preferisco vedere delle partite che mi divertano. Con giocatori che magari vengono da altri posti. Gabriele Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione perché fate molta compagnia quando sono a mangiare. Grazie. Poi volevo ringraziare l'indonesiano al secolo Erik Thohir, esatto, per averci liberato di quel paracarro di Alvarez che a me a dire la verità non è mai piaciuto. È arrivato, doveva essere Recoba, anche se Recoba non è che avesse fatto chissà cosa, però doveva essere, e mi sono, in un anno e mezzo praticamente mi sono accorto che gli potevano appoggiare una bici addosso e la bici sarebbe rimasta in piedi perché non si muoveva. Sembrava di vedere giocare Thiago Motta. Poi no, un giocatore interessante cui però mancava sempre qualcosina per essere davvero decisivo.